quasi il rumore. Facci quel microfono, Giuseppe. Ehi, adesso va bene, si prova a fare un passaggio lungo. All'innesca per le stazionarie. Vedi, adesso ho aumentato e sono salito a 2.5. Sì, le stazionarie si fanno rischiare. Lo compri? Internet non l'hai guardato, ci sono cose già contatto lui, ma c'hanno solo lo stesso libro, l'ha capito. Cerca HP 1075. E io sono, ciao Giuseppe. Sai, troppe stazionarie e ti fischia per quello il microfono. Non ce l'hai una normale? Come normale? E ti fischia così? Fischia. Quelli preamplificati è che fa fischiare quando c'hai molte stazionarie, capito? Te lo fa fischiare. sì, basso basso, e la radio è brutta, tutta messa male. Anche adesso. Il microfono deve essere quello. È incomprensibile. Cosa che non va in quel microfono. Adesso sei tu. Ma perché non ci sono? Ti stavo dicendo, quello che avevi nel camion era quello lì. Sei più lì dove eri, dove ti ho conosciuto io. Ma te l'hai tolto l'apparecchio? Ah, Gai è steso conto. Se sei in ufficio, e quello già è vero. Io quando ero a Piedatto, che lavoravo dove tu sai, che non uscivo, non mi passava più l'ora, non vedevo l'ora di fuggire. E uno che è abituato ad andare a tornare dopo a rimanere fermo viene un po' in salita. Infatti, però ho visto che esce bene, anche se uno di quelli è monogatti piccolini, questo qui, anche per il fatto che disturbavo io, e allora sono venuti, mi hanno fatto il controllo, io pensavo di essere in regola, perché era un monogatto, il baracchino invece non era marchiato CE, beh, sequestrato me l'hanno. E più mi hanno messo anche la multa. Sì, e allora? E non è quello. Questo io me l'ho dovuto comprare nuovo perché non ne avevo apparecchi marcati CE. Capito? E allora me l'ho dovuto comprare nuovo, e cioè solo questo infatti. Purtroppo c'è gente che ha l'antenna della TV marcia e tu li entri, però adesso gli faccio vedere che loro si cambiano le antenne se vogliono vedere la TV, perché qua non ci devono venire, se no riusciamo male, perché io sono già andato lì e loro mi hanno detto che io posso parlare, e mi hanno detto digli di chiamarsi il tecnico a piazzargli l'antenna nuova prima di chiamare a noi, perché se no noi se veniamo e interveniamo lì dopo pagano le spese se non sono in regola. E così gli ho detto a quelli che sono venuti a lamentarsi, se mi dici Rudinica che si viene in si quasi mi danno. Cavoli loro, sono mica e si pagano una bella multa, né? Si pagano, e più li fanno cambiare le antenne, perché se vogliono vedere la TV se le devono cambiare, tanto se non se le cambiano, poi TV non ne vedono ugualmente, né? Perché adesso esce il nuovo digitale terrestre, se non c'hai le antenne adeguate come me le ho messe io me l'ho messo già qualche anno le antenne, e sono proprio per il digitale terrestre. Io al mio televisore non gli faccio nulla, ma niente. Addirittura uno di quelli che io disturbo ha l'antenna sua sul mio palo dell'antenna. Figurati, io il mio non disturbo e a lui lo disturbo invece. Vuol dire che ha l'antenna che non fa mazzo. cavoli acidi. Me l'hanno fatta mettere, perché sennò io sul mio tetto non ci potevo salire. Me l'hanno fatta mettere l'antenna TV, però la mia non gli faccio niente, perché hanno anche visto quelli che sono venuti qua a fare il controllo. Hanno visto che io non la disturbavo la mia antenna, disturbavo solo a quelli là. Sì, hanno controllato, sono venuti con l'analizzatore di spettro, hanno controllato. Il mio era omologato, il baracchino, non era solo marcato CE, e non vuoi dimissi, non è marcato CE, e mi ha ripicato Baghissu. Era una scatola di fiammiferi stesso, c'era la targhetta di omologazione, tutto, però ci mancava la marcatura CE. Con la nuova legge io non ne sapevo nulla, perché io ci stavo dopo che mi avevo fatto la concessione, quindi io non ero informato su questo. E allora me l'ho comprato l'apparecchio in regola e modulo con questo. Evidentemente non ne aveva voglia. Nulla, la verità. Facciamo un po' di bianca a vedere se vuole entrare qualcuno. Attenzione, Natalia. Chi è? Nanni, ma tu sì. Infatti i rusignani a mi barriere il buio, ma... Vabbè, dammi che ti rispondo. Sì. Cantanino, ci sei. Allora, che sei? Non lo sapevo di dirmi di quella cosa. Sono sempre parla normale, non si capisce un tubo di quello che dice. Mi ha chiesto un controllo. Fondoschiera e Radio Monte Carlo. Si è assentato un attimo Giuseppe. Ciao Marco. Ciao Natalie. Tu? Come si fa zio? Bianco. Qualificazione. Dammi le 50 lire. Bene, mi sta ascoltando Marco. E di questi non mi fido. Tagliato un rotolo che era troppo. fare soccorso a quello vicino a casa che deve fare dello scaldabagno e non riesci a far andare da giù. Anche la prima lo devono svuotare, deve togliere l'altro coso, la valvola e mettere una pompa e la fa scendere nel bagno dove la deve mettere. Però questo non ve la faccio. Cambio danno, bisogna cavarne la valvola. Non lo so, non lo sa, ma non faccio, non faccio. Andate. E poi come ne entrate, allora? Sì, sì, ciao, Gianna Nannini, e beh. Vabbè. E allora, regolato te la costruzione. Aspetta un attimo. Avanti. Sto qua, aiuto, fammi. Cos'è già, dimmi. Ho detto, lo splitter l'ha regolato. Grazie, io sono a casa di Marina adesso. Ah, ho capito. Mi devo molto custodire con l'antenna, adesso... Dai, tu se ne serve anche un metro, dai. Sì, quando ti piazzi mi fa uno squillo, vieni, e tiro dopo. La bobina vuol fatta, ODR-155, se la vuoi più performante, oppure DRG-58. Ah, allora, detto, la bobina vuole fatta di? Bobina vuole fatta ODR-155, quello grigio, oppure RG-58. Ah, quello non lo compro. Vedi, RG-58 te l'ho dato io. No, 58 lo so, l'altro, quello che ha detto lui, l'altro. Ah, Fusaro. Fusaro se ne ha R-155, quello grigio, è fine come l'RG-58. Con quello fai la bobina e poi alla fine della bobina gli devi attaccare quell'RG-213, poi più su gli devi attaccare quello più corto. Ho capito, se lo metto qua sulle pese, cioè, allora compro un paio di metri. La misura devi sapere, no? E ci vuole la bobina tutta in uno e poi ce ne vuole qualche metro, adesso non mi ricordo quanti metri sono io, perché non c'è lo schema qua che ce l'ho portato. Le misure però le sa Giulio. Ti fa lo schema e te lo manda via WhatsApp e così te lo guardi con tutte le misure. Aspetta, che la sto mettendo a posto la camera qua, aspetta. Cava gava. E così non hai bisogno di nessuno e te la fai tu. Che io l'ho fatta funzionare qua anche. Oggi si è cavato la punta da Rubaccone, ha già attaccato un peso di RG-54 e se l'ha giocata a funzionare appena. Ma non è da tutto per farla, non è facile. C'è lo schema con tutte le misure, è una cazzata a farla. Rispetti le misure che ci vogliono, poi prende l'altro spezzone che ci vuole, vuole filo da 2,5 elettrico e la fai finire con quello. Ma sai più, lui c'ha lo schema Giulio, io ce l'ho buttato lo schema, se avevo avuto lo schema ve l'avevo mandato io con tutte le misure e tutto quanto. Ma c'è su internet, basta guardare in costruzione che è rimasto. Giuseppe, senti Giuseppe. Sì, come quella che si è comprato Gianni, io l'avevo costruita una, senza né radiali né nulla, 5 stati, boom, fa più di la Mantova. Mi dilla Gianni. E quella non ne ha bisogno nemmeno che sia un'altezza. La puoi mettere fuori tranquillamente, non ha bisogno di essere sotto la testa. La spara tutte le spalle. Però non è corta, se la metti nel ferro da stendere, per la lì la può fare. anche se prendono la biancheria tipo Rizzola che ci aggancia. E una canna da pesca ci vuole, sui 7 metri mi pare che sia, ma non me la metto. Però è una pompa più della Mantova. Sempre lì, che se ne sta ridendo. Ma lì è sopra un palo da 12 metri. E ce ne ridendi, se ne. E poi in alto. E io lì davvero ero 640 metri sopra il livello del mare. Misurati col GPS, mi. Mi pare che ti è stato con la tela, ci ho rimesso le scarpe, se non sbaglio. Giuseppe, lo vedi che già c'è? E con la tela lì non l'ha sfruttata nulla, la salita. Ci sono quei giorni sinerridenti, è sempre in chili, Emi. È che non c'è nessuno che la toglie, se ci fosse stato qualcuno la toglie se la... l'avrebbe dato. Io non ce la faccio adesso, lui non ce la fa lo stesso, senti che è rimasta. E io non posso camminare, cosa fai? A tu puoi andare a capisciuria a farmi chissà cosa, tanto gli appeso a poco. Perché sono due pali da 6 metri, uno dentro l'altro, poi già lo sa Giuseppe com'è. Perché la mantova è pesante, invece quella che c'è Gianni adesso, quella senza radiali, quella pesa un chilo e qualcosa, è tutta in PVC. I radiamatori invece prendono, non lo so cosa fanno, se le fanno loro e usano le canne da pesca in vetroresina. Quella di Gianni è tutta un'altra cosa, dura di più, perché la vetroresina si vetrifica. Sto dicendo che è leggerissima, quella di Gianni l'ho montata e io l'antenna, quindi lo so che antenna è. E io ne avevo costruito una così, l'ho fatta anche funzionare, solo che ce l'avevo già sul tetto e questa è un macello a scendermela. Se non me l'avrei fatta come quella di Gianni, sarei andato, invece di comprare la canna da pesca, ma avrei preso le sezioni dei tubi in PVC e l'avrei fatta così e sarebbe uscita come l'originale. Quella che c'ha Gianni l'ha comprata lui, non è stata fatta, è l'originale quella che c'ha Gianni, ma è, guarda, esce benissimo. Lo so, ma sono antenne che pesano le telecamere nei radiali. A Gianni mi sono parati di voce, a me come a stessi. Guarda, mi si è arrugginito il cappello, lucidato, verniciato, torra, peso di brina. Alla fine ne l'ho tolta e mi ho messo la Mantova 5. E la Mantova 5 dice che l'hanno fatta due radiali a Gianni, di bisogno. Figurati. Io Giuseppe l'ho messa così perché c'avevo le cornacchie vicino a casa, salivano sui radiali, poi come spiccavano il volo me li rompevano. Addirittura gli ho messo anche la lenta per i gruppi, quella grossa per tenere i radiali. Beh, ma erano rotti lo stesso, li ho messi in piedi, non rotti lo stesso. Perché c'era una signora che dà da mangiare i gatti e li mette da mangiare, invece che mangiare i gatti ci fanno prima le cornacchie e se li mangia, se vanno i gatti ti minacciano. Poi se ne vola, ma vanno a finire sul tetto dove trovano roba da appoggiarsi, si appoggiano, poi dove spiccano il volo, sono pesanti e si troccano i radiali, proprio dove passa il perno che è indebolito, capito? Il perno con il bullone passante, perché li ho fatti così? Perché erano sboccolati, l'ho fatto con la volutina, ho messo il bullone passante e il perno, beh, l'hanno truccato. Io ci credo. cambiati, li ho scambiati per quello, perché siamo andati per pulirla e quando li stavo smontando ti andava tutta la... si chiamano le mani, si ristava. Anche se io sono del parere comunque che le antenne dovrebbero nascere senza radiare. Vabbè, prima le radiare si usavano perché era un piano di massa. Facciamo il piano di massa, adesso hanno provato il metodo che anche senza radiare il piano di massa c'era lo stesso, ma lo stesso tempo. Un'altra cosa è l'antenna tua, è un dipolo praticamente la tua antenna, è un pezzo di filo che per farlo andare dritto omnidirezionale gli hanno messo questi tubi in qui. Però è diverso, la mantova deve aver bisogno dei radiali per forza per fare il piano di massa, capito? Vabbè, io anche se sta radiale stavo uscendo con la mano, ma ne aveva due su, invece di 5 ne aveva due. Vabbè, e poi te ne accorgi in estate adesso quanto pompa quell'antenna. Perché quella lì quando c'è qualcuno da fuori lo vedi. È più silenziosa della Mantova, sicuramente più silenziosa, a chi me lo posso immaginare. Sì, in effetti sì. Ma anche la Mantova è una bella antenna, solo che è molto pesante, quello se ti piace la Mantova l'antenna fa danno al vivo. Oh, Natali, ma ne hai per caso H155? No, di quello non ne ho. La Fusano lo vendono lì. Lo vendono la Fusano, è quello grigio, l'H155. E rende come il 213 praticamente, solo che tu devi fare una bobina, per fare la bobina è meglio il 155, no? Ma va bene anche l'RG58, quello buono. Infatti gliel'ho detto, o lo fai di RG58 oppure di H155. Io l'avevo fatto di H155 il mio, e se ce l'ho in campagna dovrei avere tutto, anche lo stazione di 213, tutto attaccato al filo, tutto il filo elettrico da 2,5, ci vuole. Come quella di Gianni, se vi fide, uguale. E adesso vediamo, là. Poi bisogna andare a comprare anche le candele a pesca. Si costruisce, tanto un palo già ce l'ho a Puglia, c'è una sgabuzzina, un palo leggero, basta, no, non ce ne vogliamo un palo di pali pesanti. Ma non hai visto quanto pesa che si antenna, Luca? Non è che vivo questo gran coso, magari se è una zona ventosa gli metti dei tiranti, tanto per non muoversi il palo, o ripone un tubo d'eva. E adesso vediamo, là. L'antenna no, vuole la stanza libera l'antenna. Io ho tirato il tubo, Giuseppe, che ho messo di quello telescopico e non è forte come quello d'acqua, capito? Quindi lavorano i radiali tirati, se non tengono quello dritto. Solo nel baratto. Ma non ricordo che abbia messo la tegola di quelle che l'aveva fatto un baratto. Cemento, perché ne avevamo fatto la domanda a lui, se no volta c'era una trave per passare dalla botola, se mettevi il piede fuori della trave il cazzo si sfondava. Perché prima li facevano così, era paglia pestata, tipo come può essere il legno, come si chiama, ma non hanno mai detto, vabbè, comunque già mi capito. Io sono salito, cazzo, nel senso di... di Franco, ha messo via posto l'antenna TV, ma chi mi subito dice va ma qualcuno con un omologato, però va via l'antenna in tutti i marchi, me ne farà da un'antenna in mano, allora gli ho cambiato un'antenna nuova, gli ho messo tutti gli spezzoni nuovi, il capo che arrivava all'amplificatore, nuovo lo stesso, l'amplificatore era in terra e vedo già attaccata una trave, ma poi manco quello che è venuto si trovava. Dove abiti tu adesso, Giuseppe? K. E beh, il tetto non fiore. Come vuoi fare allora? Cioè ti fai sentire per sassa, dice va bene. Infatti. E Giuseppe, ma puoi mettere una boomerang che è superiore magari? E non è grande come antenna, non è la... No, la metti fuori dove c'è la stendere, il ferro da stendere, ti fai un buco incipiti per la stampa. Molto alta, però in realtà sarà penso ha lo stilo centrale 2,75 m. Sembra più piccata, certo. No, io tutti e due i corsi tengo il cassetto, quelli che avevo comprato, ti ricordi quelli piccolini, i corsi, il sacco al lusso che ho detto. Il microfono? No, io non lo so fare più maletta. Ah, capito. Mi arrivo. Da c'è. Quelli che avevamo in macchina, quelli piccolini, tutti e due ce ne sono soltanto nel cassetto. Non li usare, non sei stazionari, anche se non bruci tutto. No, non mi sono modulati. Tu dici a trattare si va stazionari, anche bruci tutto. E poi si fanno tenere stazionari. Ma non li uso perché sono tante le cose importanti del tempo. Prima c'erano le gare, a me la fine mi sono l'antenna della RAI, e allora guai. Quindi l'antenna della RAI. La direttiva. Bisogna ingegnarsi in qualche maniera. Adesso sto sempre pensando, ripensando, però per il momento, guarda, mi va bene così e sto contento, credevo di non uscire nel loro così bene. No, avvicinata arrivi meglio, sì. Magari lontano che non arrivi. Sì, quello sì, però qui c'è anche un po' di sentire per cambiare quattro piatti e sicura cantare. Se hai dei limiti, rispetta le tue limiti. Va bene, poi magari col tempo si può dire, vediamo piano piano. Perché la radio è bellissima. Come? La radio esce bene. Ah sì, come cosa va bene, dai, è importante sentirsi. Se credi che ne avevo molta voglia di fare tutto il lavoro che ho fatto. Cambiato palo, antenna, tirante, tutto qua, dalla lavetta, capo. E sono sempre così. Sì, sono 250 euro strutturali. Sono l'antenna che costa 170. Viene male, non posso scenderne quella che c'è, ho fatto male, ho fatto, io l'avevo anche costruita come quella di Gianni, figurati, l'avevo anche costruita, pesa pochissimo e purtroppo è messa in un modo che se tu la vedi ti spaventi. Giuseppe, qualche giorno che passi da queste parti posso vedere la situazione. Adesso mi attento, anch'io mi stavo chiamando in cucina. Se coincide ci sentiamo dopo. Sì, ciao, ciao, proseguo. No, perché rimaniamo un po'. Ok, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, buon proseguo, Giuseppe. Ma non ce l'ha anche in cucca? Che cucca non è più essendo a noi. Non respira, io lo sapevo che sono fatto. È grave non respirare. Basta che sia respiro l'amore fra noi. E cos'è? L'uso sei macato. Sono assenteisti, cosa vuoi ti dire? Vediamo se c'è Marco Cotto. Attenzione, Marco Cotto. Sì. Marco Condo. Marco Condo. Nessuno. Ma manca neanche a me. Respirano. Sì. Vabbè, arrivano un po' di cibo. Vabbè. Ci sentiamo. Prova a guardare di là.